potrei dimenticarti. Dopo quei giorni passati insieme, come potrei dimenticare i baci tuoi che davi a me con quelle labbra innamorate. Come potrei dimenticare le lunghe sere vicino al mare, quando perduta tra le mie braccia donavi a me, soltanto a me, i tuoi 20 anni pieni d'amor. Hai cambiato la mia vita e lo sapevi che avrei sofferto lontan da te. Anche a te qualunque cosa, dovunque sia, ricorderà quel nostro amor che non c'è più. Come potrei dimenticarti dopo quei giorni passati insieme? E se dovessi mai più vederti, ricorda che io t'amerò tutta la vita, tutta la vita. Anche a te qualunque cosa